fare ladri, ci sono anche gli eroi tuoi, ma giustifichi ogni cosa, credi solo a ciò che vuoi. Anche davanti all'evidenza, neghi la verità, in fondo ti trovi bene in sto schifo di società. E quando si potrebbe fare qualcosa ti tiri indietro, perché sei sempre fatto così, hai la possibilità di migliorare qualcosa, ma sei sempre fatto così. In fondo non vuoi cambiare niente, perché sei sempre fatto così, perché in fondo ti trovi bene solo così. Non è mai il momento di fare la rivoluzione. Ti lamenti per qualsiasi cosa, ci vuole una raccomandazione. Ti lamenti di questo mondo improvvevole, ma per trovare lavoro ti sei fatto rifiutare dall'onorevole. E quando potresti rifiutare vai avanti, perché sei sempre fatto così. Diventi come gli altri, perché sei sempre fatto così. Senti anche gli amici, perché sei sempre fatto così, perché in fondo ti piace così. Sei attivo a fare beneficenza e a fare proclami, fai volontariato, ti batti di avere pulite le mani. Chiudi un occhio se devi favorire un parente, e se c'è bisogno sei sempre assente. E finalmente una volta si stava meglio, perché sei sempre fatto così. Non c'era tutta questa delinquenza, perché sei sempre fatto così. Solo racchimo e immaginazione, ma sei sempre fatto così. E alla fine ti è sempre andata bene così. Ti lamenti della violenza e dell'inquinamento, ti lamenti della situazione e del fallimento. Una volta c'era felicità e non inquietudine, ma non fai un minimo di sforzo per cambiare abitudine. E potresti rinunciare a tante cose, ma sei sempre fatto così. Basterebbe un po' di sforzo, ma sei sempre fatto così. Il mondo intanto sta morendo, ma sei sempre fatto così. La nuova mafia sta crescendo, ma sei sempre fatto così.